Música, música máquina. Música máquina. Gente matta, siamo tutti gente matta che si pitta, si infarina, si imbelletta, si paglietta, si imparrucca, si infagotta, biroetta, canta, recita, sgambetta, gente. La pena di vivere così. Gente matta, matta, matta, ma sì, gente matta. Musica meglio. Gente matta, che si viste sarrabatta, che traghetta, dall'ombreco all'operetta, che sculetta, tanto sta alla gavotta, soddisfatta, di un panino il nome in ditta. Gente sembrare matta, ma che matta non è. Matta, pazza, matta, pazza. Io, tu, noi, noi. Il sabato, dalle 21, su Radio Onda Rossa, 87.9. Matta! Musica macchina. Si confondono un universo di suoni, un viaggio senza fine. Musica, macchina, l'elettronica di confine. Un universo di suoni, un viaggio senza fine. Musica, macchina, l'elettronica di confine. dal 2001 fino a oggi. Musica Macchina non si ferma mai, su Radio Onda Rossa ci trovi sempre qui, in un sogno elettronico per volare in alto, sì. Musica Macchina, spazio novità, la nuova musica elettronica. Eccola qua, con la totalità, nello spazio cosmico vi porterà. Musica Macchina, spazio novità, anche questa settimana fatela scappare, anche in streaming la potrai ascoltare. Lasci un falso tu fa la nota, a people sono qua, fatto una raffa, o people sono qua, fatto una raffa. Lasci un falso tu fa la nota, a people sono qua, fatto una raffa. Octopus sono cantato una razza. Trasmettiamo a colori Musica Macchina, spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani. Macchina. No, grazie. Musica Macchina. Un saluto a tutte e a tutti, questa è Musica Macchina Spazio Novità, in voce con voi Amptech. Ho aperto la puntata con questa traccia electro di Luke Vibert, un nome leggendario della scena dance britannica, ricordiamolo, anche vicino ad Aphex Twin, ma anche con vari pseudonimi come Eamon Andrews e Wagon Christ e molti altri ancora. Android Weber, il titolo della traccia, che è uscita in un extended play split realizzato insieme a Post Human. Ma adesso passiamo a un altro singolo uscito da poche settimane. Si tratta del nuovo lavoro di PDQB, che vede il remix di Doppler Effect, che è quello che stiamo per ascoltare. Il brano si chiama 10,000 Ghosts. E si chiamava 10,000 Gauss Doppler Effect Gaussian Surface Remodel, la traccia che abbiamo appena ascoltato dal nuovo Extended Play di PDQB, remixato appunto da Doppler Effect, uno dei nomi più iconici della scena di Detroit. E andiamo avanti con un altro nome che abbiamo avuto occasione di incontrare varie volte negli ultimi tempi. Si tratta di Rolando Simmons. Il suo nuovo lavoro si chiama Animatronics e devo dire che ci porta in atmosfere leggermente evocative di quelle che erano le sonorità dell'IDM anni 90. Purple Soap, Rolando Simmons. Máquina. Dalle 21 alle 23 su Radio Onda Rossa. Musica Macchina. questo era un estratto da Animatronics, il nuovo lavoro di Rolando Simmons, qui a Musica Macchina Spazio Novità, condotto da Amptech. E adesso passiamo a una traccia dal nuovo lavoro di John Tejada. Il disco si intitola The Watch Line ed è pubblicato da Palette Recordings. Questo era John Tejada, il lavoro pubblicato da Palette Recordings si intitola The Watch Line. Vi ricordo siete all'ascolto dello spazio novità di Musica Macchina, vi ricordo anche il nostro sito di riferimento www.musicamacchina.com, sul quale potete trovare approfondimenti, recensioni, playlist, video, tante altre informazioni che riguardano la musica che trasmettiamo in etere da queste frequenze. Ma andiamo avanti, chiudo lo spazio novità con un altro artista, Positive Merge, che fa uscire ben 3 extended play nel giro di poche settimane, dall'extended play che si chiama Butterfly Deep Sea. macchina il sabato alle 21 su Radio Onda Rossa. Gli leggo musica macchina, musica macchina. Thank you. Musica macchina. Gente matta, siamo tutti gente matta che si pitta, si infarina, si imbelletta, si paglietta, si imparrucca, si infagotta, biroetta, canta, recita, sgambetta. Gente matta, che potrà sembrare ma non matta. Il sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9 Musica Macchina. Come prende sconvolgente, ti accompagna lentamente nel mondo del tutto e del niente. La danza della via, che il sogno inizi e così sia. Girano i dischi di H501L e tutte le cose brutte diventano belle. Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta. Yeah. saluto a Musica Macchina e Radio Onda Rossa. Escuchar música máquina. sta macchina. Non se può spiegare. Se può spiegare. Come fai a spiegarlo? Sabati dalle 21 alle 23 su Radio Onda Rossa 87.9. Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta.

dove mettere le orecchie e il cuore, forse. Gente matta, siamo tutti gente matta che si pitta, si infarina, si imbelletta, si paglietta, si imparrucca, si infagotta, biroetta, canta, recita, sgambetta. Gente matta, che potrà sembrare ma non matta. Il sabato, dalle 21, su Radio Onda Rossa, 87.9. Musica macchina. Musica macchina. Tutti i sabati dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa, 87.9. Per Musica Macchina qui su Radio Onda Rossa, e torniamo con la nostra analisi, il nostro studio, i nostri ascolti riguardanti la Daft Records, etichetta fondata da Dirk Evans, un'etichetta che sfornò 122 release a partire dal 1995 per arrivare al 2018. Torniamo a Grinding Walls, album di Dive, progetto appunto di Dirk Evans, un disco particolare perché in realtà fu una colonna sonora di un film dal nome Dal Coma, fatto insieme a Sigillum S, e ci andremo ad ascoltare tre brani: Grinding Walls parte 2, Inside My Spine Stones of That Are Treading Like Pearls e Flesh Is Dream Leap. La vita è più facile con la musica macchina. Thank you. E veniamo al personaggio che spesso ha collaborato a Dirk Evans in vari progetti tipo Sonar, Absolute Body Control, Clinic. Sto parlando di Erik Van Bontergem, in queste circostanze col suo progetto Monolith, che fondò verso la metà degli anni 90, e nel 1997 esordì per l'appunto con la Daft Records con questo lavoro, Compressed Form, probabilmente l'album più sperimentale, più industrial, più slegato da certi frangenti etnici. E da Compressed Form ci ascolteremo quattro brevi estratti, ossia Virtual Product Code, Protodrive 5, Entertune Converter e Static Source Zits. We'll be right back. Musica macchina. Tutte fandonie. E scoprirai che puoi farla tutte le volte che vuoi. Saluto per Musica Macchina da Maci Capatonda per Radio Onda Rossa. Musica Macchina. Musica Macchina. Andiamo a chiudere questo odierno spazio riguardante la Daft Record con un altro progetto dal nome Hybrids, un progetto alquanto misterioso, un collettivo direi allargato, che tra gli altri vedeva presente un giovanissimo Herman Claffels, che poi successivamente andò a fondare Akamasots. Abbiamo qui Cortex Stimulation, un album molto particolare, perché fu uno dei pochi album che si discostò dalla normale produzione ritualistica o sacrale esoterico. Album dunque degli umori industrial noise, dal quale ci andremo ad ascoltare I Hear You Whisper. Thank you.